In questo momento sono riusciti già a tagliare la maggior parte del verde che c'era sul terrapieno, hanno arrestato, comunque portato via due persone, mentre ce ne sono altre in stato di fermo. Non si contano le persone ferite, perché oggi hanno proprio dall'inizio detto che non c'erano mezzi termini. Davanti a un presidio pacifico hanno caricato più volte vecchi, giovani, indiscriminatamente, e come forse già sapete hanno già potato degli alberi, anzi abbattuto degli alberi su cui c'erano sopra degli attivisti, con scene tra il comico e il tragico, dei poliziotti celerini, operai che rimangono, rischiano di cadere persino loro, e rimangono appesi con le mani e i rami, sostenendo di stare facendo tutto in sicurezza, mentre i rami tagliati cadono in testa ai celerini, però vabbè, almeno loro nei caschi. Sono andati avanti con i lavori, c'è ancora tensione? Adesso si è smorzata, ma probabilmente ci sarà, rimangono delle persone sugli alberi, rimangono delle persone ferme in protesta pacifica, non violenta, sono stese sul terrapieno, probabilmente quando arriveranno in quella parte ricominceranno le tensioni. Sembra che gli alberi su cui adesso ci sono gli ultimi attivisti per ora li stiano lasciando, non so se per più tardi o per un prossimo giorno, comunque li hanno superati. Probabilmente fra un po' ricomincerà la tensione. Alla fine sono schierate davanti a me almeno 6-7 camionette tra polizia e carabinieri, e il presidio rimane numeroso, ma c'è bisogno di sostegno. Le persone ferite, dicevi, sono diverse in seguito alle cariche? In seguito alle cariche, in seguito ai tentativi di prelevare persone per identificarle, per intimidirle. Basta, oggi sono davvero, io non avevo mai visto una violenza simile. Guardano le persone negli occhi, basta che apri bocca, ti vengono a prendere e ti portano via.